Allora, stiamo correndo un sacco, quindi è difficile parlare, però siamo stati buoni fino a diciamo, il primo paese che abbiamo incontrato, circa a 6 km dal campo, e la polizia ci diceva di poter solo andare alla manifestazione legale, il che ovviamente non era esattamente nei piani. Quello che è successo poi è che, diciamo, la prima occasione si è ripiegato prima sull'autostrada e poi sui binari, quindi si è bloccata sia l'autostrada che i binari. Siamo migliaia di persone, io penso intorno alle 5.000. Io sono dove c'è il blocco golden e rosso, perché siamo insieme. Ho perso i miei compagni. Ora stiamo bloccando i binari, binari che ovviamente portano comunque su e giù il carbone da questa fabbrica di veleno. Ovviamente la polizia è sulla strada di sopra di noi con le camionette e le loro squadre speciali. E, niente, questo è l'ultimo aggiornamento. Sappiamo che anche gli altri blocchi sono passati, ma non so esattamente che cosa stanno facendo perché su Twitter non l'ho capito e non abbiamo aggiornamenti dal campo. Niente, questo finora.